così le ombre strisciando ritornano con la testa chinata ed il pavero alzato, vedo la nebbia come l'olandese dimenticato. Piano sussurro ai fantasmi che mi sfiorano, piano che vagano in vano in cerca di cuori o mura spezzate in cerca di favole e favori. Il mondo di fuori.